Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Questa è la puntata numero 455, nella quale parleremo di soldati vegani, santuari platonici e animali con cognizione di causa. Speriamo di avervi incuriositi. I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. The blood sails. Dedichiamo questa puntata a Nathan Labolani, 19enne morto per una fucilata all'addome esplosa da un cacciatore in provincia di Imperia. Ma anche al cane Kimon, ucciso da un colpo di fucile nelle campagne fra Serra di Rapolano e Asciano in provincia di Siena. Al ciclista Mark Sutton, ucciso mentre pedalava nel bosco. Al 24enne giocatore di soft air colpito a una gamba nel Bergamasco. Al 34enne colpito da una fucilata al volto e al collo nel Comasco. Per tutte queste vittime umane della caccia c'è stato un clamore nella stampa. Le altre vittime della caccia, però, le centinaia di migliaia di uccelli e di mammiferi che ogni anno cadono sotto i colpi dei fucili, non fanno notizia. Restano i cuccioli a morire di stenti e inedia, resta il terrore di tutti gli abitanti del bosco quando sentono sparare, resta lo smarrimento dei compagni monogami che sono affranti dalla perdita del partner, restano boschi militarizzati e pieni di bossoli e piombo, resta l'ansia di chi vive in campagna o in montagna e non si sente più al sicuro. Ma per la progredita cultura umana tutto questo non è abbastanza per mettere in discussione un ecocidio legalizzato chiamato caccia. The darkness sleeps, cushioning the heartbeat. And I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. Speaks to ghost, soars alike, springs to life, doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, nailed to the source and it won't let go. Fed on the Bible, growing from trees. Open the mind and the heart is free. A home in the silence, safe from sound. The trouble sleeps and the light is found. Speaks to ghosts and souls of life. Springs to life and it doesn't think twice. In 3 anni il numero dei soldati vegani all'interno dell'esercito israeliano è cresciuto del 20% e le forze armate israeliane affermano di essere le più vegane del mondo. Lo ha riferito la radio militare, secondo cui oggi rientra in questa categoria un soldato su 18. In passato i militari che si dichiaravano vegani dovevano sottoporsi a un iter burocratico, mentre oggi le procedure sono state molto snellite. I cuochi militari hanno partecipato a corsi di aggiornamento professionale per far fronte alla situazione e preparare pranzi adeguati alle nuove necessità. Le percentuali di soldati vegani più elevate sono state rilevate nell'intelligence e negli uffici di Stato Maggiore. L'ufficiale vegano più alto in grado risulta essere il vice capo di Stato Maggiore, il generale Aviv Kochavi. Un esercito composto da civili in lega obbligatoria non può che riflettere le percentuali del resto della cittadinanza. E sappiamo che in Israele il movimento vegano è molto forte. Ma a noi che decliniamo il veganismo in chiave non violenta, i soldati israeliani non sembrano i rappresentanti ideali di uno stile cruelty free. Trattare meglio gli animali dovrebbe andare di pari passo con il rifiuto delle armi, della forza e della prepotenza. Ci piacerebbe che venisse indagato il tasso di veganismo all'interno del più risicato, ma immensamente più eroico gruppo dei refusenik israeliani, cioè quei giovanissimi obiettori di coscienza che si rifiutano di imbracciare le armi pur sapendo che per loro si apriranno le porte della galera. Stanno spostando verso ovest le chiazze di greggio avvistate nel mare Ligure al largo della costa tra l'Imperiese e il Savonese e provocate dalla collisione tra la porta container Virginia e il traghetto Ulysses avvenuta il 7 ottobre al largo della Corsica. Si tratta di piccole macchie, un centinaio di metri di diametro, è quanto emerge dalle ultime simulazioni effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente Ligure sulle possibili traiettorie degli inquinanti, con ottimi riscontri dal confronto con le immagini satellitari. Alcuni incidenti che si verificano in mare con procedure e misure riguardanti soprattutto il traffico marittimo si dovrebbero evitare. Da tempo Mare Vivo, con il progetto Autostrade del Mare, la campagna in difesa dei cetacei e la promozione delle aree marine protette, ha richiesto un rafforzamento mirato dei sistemi di sicurezza della navigazione e di quelli di monitoraggio del traffico marittimo, sottolineando i rischi della sua intensificazione soprattutto in un bacino chiuso come il Mediterraneo. Lo scrive la ONG Mare Vivo in un comunicato. Per Mare Vivo il santuario dei cetacei ad oggi è una dichiarazione platonica, perché non ci sono divieti di pesca, non ci sono in particolare per quella dei palangari e pesca del tonno e del pesce spada, salvo le limitazioni nazionali. E specialmente non ci sono corridoi della navigazione dei mercantili e dei traghetti, che incrociano a tutta velocità verso Sardegna e Corsica. Secondo i dati ufficiali, ogni anno 40 balene o balenottere sono speronate e uccise dalle navi. La compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries è stata la prima a installare a bordo un sistema satellitare che consente di individuare anche di notte eventuali cetacei sulla rotta, che per i francesi è invece obbligatorio su tutte le navi mercantili oltre 24 metri. Abbiamo proposto più volte, dichiara Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, un monitoraggio ambientale mirato sugli impatti della navigazione e del trasporto marittimo, soprattutto in una zona protetta per i cetacei. È inaccettabile che in un santuario non ci sia un limite al transito navale che per gli animali marini rappresenta una fonte di enorme stress. Then on to the next one. Park in your lane. Then into the party. Make myself known. Then on to the next one, can't I just see? Anche questa settimana torna la consueta rubrica di cucina Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Mama, turn on the light in this place. There's no smile like the smile on your face. There's no joy like the joy of the soul coming in. There's no joy like the joy of the soul coming in. Siamo ad ottobre, autunno. A me viene subito in mente una cosa: castagne. E se penso alle castagne, vabbè, che ve lo dico a fare. Passo direttamente alla ricetta. Ma prima una breve introduzione dallo stesso autore che un po' di tempo fa introdusse con uno spezzone tratto dallo stesso monologo la Sacher Torte. Il Mont Blanc non è come un cannolo alla siciliana che c'è tutto dentro, è come uno zaino, lei se lo porta appresso per un mese e sta sicuro. Il Mont Blanc si regge su un equilibrio delicato. Gli ingredienti per 4 persone per il Mont Blanc sono 700 g di marroni, mezzo litro di latte vegetale, riso, soia o avena, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, una tazzina di rum, vaniglia, 100 g di zucchero di canna, un pizzico di sale e della panna di cocco. Lavate le castagne e castratele con l'apposito apparecchio o con un coltellino, quindi lessate in abbondante acqua per circa 30 minuti. Scolate e lasciate intiepidire per poco tempo e sbucciate. Non lasciate raffreddare troppo le castagne, altrimenti sarà più difficile pulirle dalla pellicina marrone interna. A questo punto versate le castagne pulite nel latte e lo zucchero, qualche seme di vaniglia, il pizzico di sale e fate cuocere in un tegame per altri 20 minuti. Scolate e passate le castagne al passatutto o con lo schiacciapatate. Mettete il tutto in una ciotola ed unite il cacao amaro ed il rum. Quando tutto sarà ben assorbito, fate riposare l'impasto per mezz'ora in frigorifero. Una volta ben raffreddato e compattato, formate una sorta di monte con l'impasto di castagne. Potete usare uno schiacciapatate ed accomodare i fili di impasto a piramide, oppure aiutarvi con una forchetta facendo delle righe verticali. Infine montate la panna di cocco, che avrete fatto ben raffreddare in frigorifero affinché sia più semplice e rapida la lavorazione, e con una sacca poche con la bocchetta rigata decorate il vostro monte con fiocchetti, lasciando scoperti alcuni punti per mostrare la parte di castagne. Potete servire guarnendo ulteriormente con pezzetti di cioccolato fondente. Spinning here now. given, always and never been true. Primatologo all'Emory University, ha pubblicato un libro il cui titolo ci piace tantissimo. Siamo così intelligenti da capire l'intelligenza degli animali? Nel libro vengono spiegate le diverse tipologie di intelligenza presenti nelle specie non umane, corredate da molti esempi, in cui gli esemplari di alcune specie in certe situazioni si dimostrano molto più scaltre di noi. Gli scimpanzé, per dirne una, possono facilmente battere gli umani nel ricordare una sequenza di numeri mostrati per una frazione di secondo. Le piovre sanno aprire flaconi di pillole chiuse da tappi a prova di bambino. Cani e cavalli, tra le specie che più trascorrono il loro tempo tra gli umani, sono in grado di riconoscere e interpretare il linguaggio non verbale del corpo per decidere come comportarsi di conseguenza. L'intelligenza di ogni specie, insomma, sostiene De Waal, è il frutto di una lenta ma continua evoluzione e dipende dall'habitat, dal tipo di attività che si devono svolgere e dalle necessità di sopravvivenza. Tutto ciò rende i paragoni tra l'una e l'altra specie assolutamente privi di senso, spiega De Waal. È inutile pretendere da uno scoiattolo che sappia contare fino a 10, se contare fino a 10 è una cosa che non porta alcun giovamento alla sua vita. Lo scoiattolo è imbattibile a trovare, nascondere e ritrovare le nocciole, una competenza che noi umani non abbiamo. Io per esempio, continua De Waal, spesso dimentico dove ho parcheggiato l'auto, ma a noi umani questo tipo di memoria non serve perché non dobbiamo sopravvivere in un bosco durante un gelido inverno. Tema abbiamo anche in Italia pensatori e scrittori che hanno sviluppato notevoli spunti di riflessione. Uno di questi è sicuramente Roberto Marchesini, etologo, filosofo, veterinario, fondatore della scuola di interazione uomo-animale SIWA. Per presentarvi il libro di Roberto Marchesini, Etologia cognitiva alla ricerca della mente animale, vi proponiamo questo bel dialogo tra l'autore e Eleonora Adorni. Roberto, cosa ti ha portato a scrivere Etologia cognitiva alla ricerca della mente animale, appena edito da Peyron? E in che cosa si caratterizza la tua proposta per un'etologia cognitiva? Beh, il mio desiderio è stato quello di superare questa tendenza a vedere negli animali delle macchine, che purtroppo è ancora molto presente, quindi riprendere quel dettato cartesiano dell'animale automa, mosso da degli automatismi, come se tutto l'innato e tutto ciò che ha appreso desse luogo a degli automatismi e l'animale fosse una sorta di burattino mosso da dei fili. Ecco, diciamo che tutto questo è ampiamente superato dalla ricerca in etologia ed è utile, insomma, parlarne e parlarne in modo nuovo, cioè attraverso nuovi modelli. Quindi il mio desiderio era quello di costruire nuovi modelli che facessero vedere come in realtà gli animali hanno delle emozioni, delle motivazioni, tutte le loro conoscenze, sia innate che appreso, sono degli strumenti, sono delle mappe, cioè sono gli animali che utilizzano le loro dotazioni e non sono queste che muovono l'animale. C'è una bella differenza. Dico spesso, quando insegni al cane il seduto, è il cane che possiede il seduto e non il seduto che possiede il cane. In altre parole, l'animale utilizza questa dotazione in svariati modi, la fa sua, quindi c'è questo principio di soggettività. La differenza nel mio libro è quella di mostrare come la mente animale sia data soprattutto da due caratteristiche molto differenti tra di loro. Da un lato le caratteristiche preriflessive, come le emozioni, le motivazioni, quelle che spingono a vedere il mondo, a sentirlo in una certa maniera, e dall'altro le conoscenze, che invece sono strutture riflessive e rappresentazionali. Ecco, nel mio libro ho voluto cercare di spiegare in modo molto semplice e chiaro questa complessità dell'animale, perché gli animali sono estremamente complessi, esattamente come noi. Il filosofo Wittgenstein diceva che se un leone potesse parlare, noi non riusciremmo a capirlo, come a sottolineare una sorta di incomunicabilità irriducibile tra noi e gli altri animali. Ma è proprio così? A tal proposito, nel libro tu fai chiarezza su due tipi di antropomorfismo, quello banale e quello critico. Ci puoi spiegare meglio cosa intendi? Se non avesse ragione Darwin, darei ragione a Wittgenstein, ma in realtà il punto fondamentale è quello che gli animali non sono stati costruiti in maniera disgiunta. Tutti gli animali sono legati tra di loro da processi di parentela comune, quindi tante caratteristiche sono caratteristiche condivise, sono caratteristiche che abbiamo insieme a loro perché le abbiamo tutte ereditate da un progenitore comune. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in pratica che esiste un antropomorfismo sbagliato, cioè quando noi proiettiamo sugli animali delle caratteristiche che sono tipicamente umane, che fanno parte della specie umana, molte caratteristiche della comunicazione, per esempio l'abbracciare, che vuol dire ti voglio bene però vuol dire nei primati, quando lo facciamo in un gatto, in un cane o in altri animali che non sono primati, questo perde completamente il significato, può assumere significati totalmente differenti. Questo è un antropomorfismo sbagliato, ma quando diciamo che una cagna ama i propri cuccioli o che un gatto si diverte giocando, non stiamo facendo un antropomorfismo, perché in realtà non stiamo proiettando caratteristiche umane su questi animali, ma stiamo riconoscendo delle caratteristiche condivise, cioè delle caratteristiche che fanno parte dei mammiferi, perché tutti i mammiferi amano i cuccioli, tutti i mammiferi giocano e si divertono giocando e imparano giocando. L'ultimo capitolo del libro si intitola in modo un po' provocatorio La scatola trasparente. Quello che tu poni sotto scacco, con rigore scientifico, è l'idea di animale burattino, privo di qualsiasi titolarità sulle proprie dotazioni. Marchesini, cosa c'è allora dentro la mente degli animali? Innanzitutto va detto che sarebbe molto più complesso se l'animale fosse un burattino mosso da dei fili, sarebbe molto più complesso per lui muoversi nel mondo, lo dice il fatto che abbiamo costruito dei robot che in qualche modo sono fatti di automatismi e non sanno muoversi nel mondo proprio perché non hanno la titolarità delle proprie dotazioni, cioè non sono proprietari dei propri strumenti. In realtà, ecco, la mente è quell'insieme, l'insieme, diciamo, di caratteristiche che consentono all'animale di mettere insieme le diverse dotazioni in più modi e quindi in questo senso riuscire a gestire quello che è il mondo. Il mondo è singolare, vale a dire tu puoi fare 100 volte lo stesso percorso, farai 100 percorsi simili, ma mai 100 percorsi identici. Questo vuol dire che ogni volta che fai il percorso, anche se è lo stesso, devi gestire dei margini di novità. Se tu non avessi una mente capace di essere creativa, flessibile, di mettere le cose insieme in diverso modo, non saresti mai in grado di gestire questa novità, non saresti mai in grado quindi di affrontare la singolarità del mondo. Fino a ieri sicuramente la mente era qualcosa di inaccessibile. Il punto fondamentale è che oggi abbiamo qualcosa in più, delle possibilità di modellizzazione molto più avanzate, grazie anche per esempio allo sviluppo dell'informatica, ma abbiamo anche delle tecniche che ci permettono di visualizzare, le tecniche neural imaging oggi, come la risonanza magnetica funzionale, permettono di entrare direttamente a vedere quello che avviene all'interno del cervello. Quindi il punto centrale è che oggi questa scatola non è più assolutamente una black box, non lo era allora, ma diciamo che oggi non è più possibile continuare a dire che la mente è una black box. questo servizio, vi segnaliamo che in home page, nel nostro sito internet www.restiamoanimali.it, troverete uno speciale sugli insetti curato da Roberto Marchesini, intitolato Così parlò la locusta. E tra i nostri podcast vi segnaliamo quello di sabato 14 luglio 2018, ovvero la nostra puntata numero 441, nella quale Eleonora Adorni e Roberto Marchesini presentano un altro bel libro intitolato Cane e gatto, due stili a confronto. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Big screen dolls, fits and explosions, sleepy time, that's all but you. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Intergalactic, seeming to be you, it's all in the tablets, sneezy return. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Mars happy nation, sit on my karma, day meditation, take me away. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la cui voce vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 456 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.